quelle americane e quelle italiane che sono sempre state ovviamente felici perché in Europa non si contempla l'invasività di campo da parte dei produttori, mentre in America è un po' una scuola, ma nonostante questo le mie prime due esperienze sono state determinate da un'assoluta libertà d'azione artistica. Questa volta ho dovuto fare i conti invece con una scuola di pensiero che fa parte comunque di una certa classe dell'industria americana che tende comunque ad assumere il regista perché lui consegni il prodotto che loro hanno in mente. E io questo temperamento del signor sì non ce l'ho proprio nel DNA, per cui ho accettato di fare un film perché mi piaceva quello che il film aveva e non mi è piaciuto quello che loro pensavano che dovesse avere. E per cui abbiamo avuto un contrasto innegabile, dalla quale però non sono uscito poi sconfitto in termini artistici, perché il film in realtà, nonostante tutto, rispecchia profondamente quello che io volevo fare, a dispetto comunque ovviamente di uno stress e di una pressione che non avevo mai subito, sicuramente.